Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, 451 intersezioni, ritorna in coppia con 451 frammenti sonori, nel senso che mercoledì scorso, cioè ieri, è stata mandata in onda di nuovo, è ritornato in diretta con una splendida trasmissione all'interno del progetto Futuri Rumori, Max Macchia con la sua trasmissione del mercoledì notte di Radio Città Fujiko dalle 23 all'una circa di notte, e anche 451 intersezioni condotta ogni giovedì notte sempre su queste frequenze dalla mezzanotte all'una, una e mezza circa, a seconda anche del clima, e entreremo meglio nel merito tra poco. 451 condotta da me medesimo, cioè Elisio Scarpa, che vi saluta in questa nottata veramente afosa. È scoppiata stasera un caldo pazzesco, infatti in radio non si respira praticamente quasi nulla, stiamo grondando sudore. Sarà dura andare avanti con questo clima anche per tutto il mese di giugno, ma abbiamo in serbo almeno la fine di giugno come puntata, diciamo, di chiusura ufficiale del Network 451, una puntata speciale di 451 intersezioni, 451 frammenti sonori, insieme dunque condotta da me medesimo e da Max Macchia a fine di giugno, ma poi vi avvertiremo ovviamente in tempo anche attraverso il nostro blog No Blog, che vi ricordo sempre è 451 frammentisonori.noblogs.org, dove troverete tutte le informazioni sulle due puntate facenti parte del Network 451. Il nostro indirizzo è sempre 451 frammentisonori.noblogs.org, lì troverete tutte le informazioni delle puntate presenti, passate e future del nostro binomio 451 frammenti sonori e 451 intersezioni. Bene, sto andando come una scheggia, ma per ovviamente ritornare a bomba sulle informazioni tecniche, 451 intersezioni stasera ritorna dopo la puntata di giovedì scorso che è mancata, dunque mi scuso con i numerosissimi ascoltatori che ci seguono regolarmente, ovviamente è una battuta, e 451 intersezioni stasera ritorna con questo clima che comincia a essere veramente estivo, dunque giornate più lunghe, caldo, gente in giro, aria insomma estiva, e mi sembrava interessante divertirsi un po' attraverso un personaggio assolutamente unico, eclettico, anche se molto poco considerato nell'ambito musicale, anche sperimentale, di ricerca. Parliamo di Tom Rechion, che è sulla scena musicale ormai dagli anni 70, essendo uno dei progettatori, cospiratori del progetto Los Angeles Free Music Society, progetto collettivo, aperto, molto politicizzato, provocatore degli anni 70, in cui si mischiava un po' di tutto, sperimentazione, avanguardia, elettronica, rock artistico e delirante, punk, post-punk, no wave, new wave, jazz, funk, insomma chi più ne ha più ne metta. Un progetto apertissimo dove appunto si svolgeva spesso attraverso dei posti, dei locali abbandonati, occupati, delle performance estemporanee in situazioni estremamente fluide, dunque progetto estremamente rivoluzionario nell'ambito musicale. Appunto uno degli ideatori del progetto Los Angeles Free Music Society, poi si è anche costituito una vera e propria etichetta, passato diciamo il periodo fulgido degli anni 70-80, è ancora in attività questa etichetta, e anche Tom Rechion, musicista californiano che oltre ad essere musicista ma anche sound designer, visual art e art director e graphic designer, dunque un artista tutto tondo, estremamente aperto all'esperimentazione. Racconteremo un po' la storia di questo genio del Novecento e anche degli anni zero, perché continua anche in questi ultimi 15 anni dal 2000 in poi a far uscire dischi e sperimentazioni, ma in maniera tutta sua, molto distante anche fra gli anni, le produzioni, le uscite degli album e anche le performance dal vivo, anche perché appunto Tom Rechion è un artista che si muove su varie discipline e varie, diciamo, espressività, dunque non soltanto nell'ambito musicale. Una chicca, ad esempio, Tom Rechion ha partecipato all'aspetto appunto come tecnico del suono e sound designer, ad esempio nella colonna sonora del famosissimo Twin Peaks, dove appunto la parte, diciamo, compositiva era curata da Badalamenti, ma lui seguiva anche appunto come tecnico del suono, come art design sound. E entrando entrando anche in questa piccola, diciamo, divagazione, entriamo subito nell'universo sonoro di Tom Rechion, partendo proprio da un cofanetto che è uscito negli anni zero di Los Angeles Film Music Society, esattamente alla fine degli anni 90, tra il 98 e il 2000, un cofanetto che racconta un po' i vari autori, i vari progetti di questo progetto collettivo, scusate il gioco di parole, e un intero album di questi ben 11 dischi di questo cofanetto è stato dedicato a Tom Rechion, che ha rielaborato anche delle sperimentazioni degli anni 70, riportandole ovviamente negli anni 90, fine anni 90, inizio anni zero. E da qui ascolteremo due tracce che raccontano un po' il mondo magico, meraviglioso, sognante e anche delirante di Tom Rechion, molto suggestivo ed evocativo, con delle atmosfere che ricordano alcune colonne sonore degli anni 60-70, ad esempio morriconiane, ma anche altre dimensioni più legate a colonne musicali, film, telefilm e addirittura di cose che possono ricordare cartoni animati vari della nostra infanzia. Su questo gioco crea questi universi, questi mondi sognanti e magici che vengono rappresentati meravigliosamente da questo unico disco degli 11 del cofanetto The Lowest Form of Los Angeles Free Music Society. Ce l'andiamo ad ascoltare, poi proseguiremo nel corso degli anni accennando ovviamente ad alcuni brani, ad alcuni album, per darvi un'idea, una sorta di piccola infarinatura dell'universo assolutamente sterminato e magico di Tom Rechion. Partiamo dunque da Tom Rechion, da Los Angeles Free Music Society. Buon ascolto. Siamo rientrati in diretta, ovviamente un brano, anzi due brani che possono darvi un'idea della sperimentazione del grande Tom Recchio nel periodo anni 70, seppur rielaborato negli anni fine anni 90, inizio anni 0, dentro il cofanetto Los Angeles Free Music Society. Consigliatissimo se riuscite a trovarli in qualche maniera, 11 CD splendidi con tutti gli autori, i progetti di questo contenitore collettivo di Los Angeles Free Music Society, e all'interno appunto l'unico e intero disco dedicato a Tom Recchio, di cui abbiamo ascoltato due tracce che danno l'idea insomma del mondo fatato e magico e delirante di questo autore californiano. E continuando il nostro percorso storico, andiamo a pescare un album uscito nel 1982 sempre da parte di Tom Recchio, il primo vero disco ufficiale di Tom Recchio, Freak Show, uscito per l'etichetta Pinacoteca, che racconta appunto l'anima rock e anche l'anima un po' più dadaista e surrealista di Tom Recchio, con dei brani assolutamente provocatori. Ce le ascoltiamo, ben quattro tracce una dietro l'altra, piccoli frammenti del mondo assurdista del grande Tom Recchio, e continueremo così poi nel corso della storia di Tom Recchio, andando subito però a finire negli anni zero, anche perché come produzione musicale Tom Recchio dall'82 fino alla fine degli anni 90 praticamente fa uscire soltanto due album non particolarmente brillanti. Dunque passeremo poi direttamente agli anni zero per ascoltare l'evoluzione di questo musicista. Intanto godiamoci Freak Show, un altro elemento di conoscenza di questo autore purtroppo non abbastanza considerato. Buon ascolto. Walking around and thinking of things to buy.

E siamo ritornati in diretta, abbiamo ascoltato ancora quattro tracce, piccoli frammenti da Freak Out, album splendido di ovviamente Tom Recchio, stiamo parlando sempre di lui, un percorso diciamo di frammenti storici del lavoro ormai di quasi 40 anni, più di 40 anni di Tom Recchio, parte dagli anni 70, attraversa gli anni 80 e poi arriva anche agli anni 0. Abbiamo ascoltato appunto quattro piccole tracce dall'album del 1982, poi diciamo solo due album fino agli anni 0, un album del 1986 Solos e poi Caotica del 96 a distanza di 10 anni. I lavori invece negli anni 0 diciamo riprendono un po' più di vigore, incomincia a far uscire diversi album dal 2004 fino al 2016, abbiamo ascoltato circa due o tre puntate fa l'ultimo lavoro uscito proprio un mese fa di Tom Recchio, Sacca Down, e adesso invece andiamo a calarci negli anni zero, il primo album I Love My Organ per la Birdin Records, e qua diciamo mantiene sempre l'elemento eclettico, sognante e paradossale nelle musiche sviluppate dal musicista californiano, ma c'è un aspetto un po' più ambientale, un po' più intimista, che forse fa perdere quell'elemento pazzoide e provocatorio che abbiamo ascoltato anche in questo album. In particolar modo si sente l'aspetto rock in Freak Show, ma anche l'aspetto appunto legato al fenomeno della new wave che in quegli anni imperava soprattutto negli Stati Uniti d'America, questo grande mix di musiche legate alla new wave, ma anche al punk, al post-punk, al funky, al jazz, e anche i primi elementi di elettro che iniziarono a emergere proprio all'inizio degli anni 80, fine anni 70. E invece adesso ci sposteremo in un territorio un po' differente, anche se l'elemento appunto geniale e provocatorio rimane sempre nelle elaborazioni di Tom Recchio anche in questi album degli anni zero. Andiamoci a sentire dunque l'album I Love My Organ del 2004, ascolteremo la traccia proprio d'apertura dell'album, poi rientreremo per ascoltare altri due album successivi e chiudere questo piccolo tributo al grande musicista californiano. Buon ascolto dunque da I Love My Organ. Siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato quest'ultima traccia con le due tracce precedenti tratte da I Love My Organ, uscito nel 2004. Quest'ultima traccia invece, ma si sente anche a livello sonoro una differenza compositiva, è tratta dall'album Proscenium, uscito nel 2012 per l'Elevator Bat, un disco molto bello dove Tom Rackham si sbizzarrisce in un'elettronica quasi di spettrale, quasi di fantasmi, con questi suoni abbastanza particolari che elabora. Attenzione all'aspetto sonoro, è sempre stata una caratteristica dei lavori musicali di Tom Rackham, sia dal Los Angeles Free Music Society sia anche nei lavori più rock o no wave, fino ad arrivare alle cose più elettroniche. C'è sempre un'attenzione molto forte, essendo lui anche un tecnico del suono, un esperto, un ingegnere del suono estremamente raffinato, e in questo album, in Proscenium, si ascolta molto l'attenzione al suono, ma anche all'elemento sempre assolutamente imprevedibile e delirante che è presente nei lavori e nelle concezioni compositive di Tom Rackham. Anche questo elemento un po' giocoso, da viaggi quasi fantascientifici ma anche divertenti e informali, che porta avanti sempre Tom Rackham nel suo, diciamo, nella sua continuità, nella sua, nel suo filo rosso musicale che l'ho portato dagli anni 70 fino ai giorni nostri. E da Proscenium andiamo verso la fine di questa puntata, forse un'ora è poca per poter far apprezzare tutto il percorso sonoro di Tom Rackham, ma forse ne faremo un'altra la prossima stagione radiofonica, anche perché è veramente magico il mondo sonoro di Tom Rackham, e sarebbe bello sicuramente ripresentarlo con altri album e altri brani. Intanto, per chiudere la puntata di stasera dedicata a Tom Rackham, andiamo a pescare pubblicare l'ultimo lavoro, l'ultimo album che ascolteremo stasera, tratto dall'album uscito nel 2006 per la School Map, Sweetly Doing Nothing, splendido lavoro. Anche qui entriamo dentro un territorio più squisitamente elettronico e per certi versi ambientale, e ci ascoltiamo una traccia meravigliosa, l'ultima dell'album, Underwater Girls. E a questo punto io vi auguro una buona nottata con le musiche di Radio Città Fujiko, chiudiamo con quest'ultimo album e ci rivedremo giovedì prossimo, ovviamente caldo permettendo, novità permettendo, dato che la radio è anche in fase di trasloco fisico dalla sede che è ancora attuale qui a Bologna fino a un'altra sede che si diciamo concretizzerà proprio in questo mese tra giugno e luglio, dunque vedremo il da farsi, ma lo comunicheremo se volete avere informazioni e notizie o attraverso il nostro blog, che è sempre 451frammentisonori.noblog.org, oppure la nostra pagina Facebook, andate a cercarla su, ovviamente col nome 451 frammenti sonori, e lì daremo tutte le notizie via Facebook delle prossime puntate. Una buona notte e vi lascio all'ultimo brano della puntata di stasera, il magico mondo di Tom Rechion. Buonanotte da Elisio Scarpa e buon ascolto.